Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra allora, un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Io dico che vince l'Inter 3-1. Adesso siamo a casa, no, tirano, cominciano a tirare le bombe. Secondo me vince l'Inter 3-1. E domani vi sfido, vi aspetto qui, a tutti i convocati, con questo pronostico che sicuramente sbaglierò di grosso. Oh, che bel buco impagliato! Impagliato! E parla! È sicuramente molto meglio di te! No, no, bravi, complimenti! Dopo questa carognata di Franco Piantanelli, autore di questo programma, e di Roberto Scaltritti in regia. Allora, oggi parliamo di playoff NBA, Heat contro Bucks, Knicks contro Boston Celtics, Indiana Pacers contro Atlanta, Brooklyn Nets contro Chicago per la Eastern Conference, Oklahoma Houston, San Antonio Lakers, Denver Golden State e Clippers contro i Memphis Grizzlies. Quindi parleremo di playoff NBA, di Fognini che ha battuto a Monte Carlo Berdic, mica paglia, ai quarti di finale. Parleremo dei prossimi mondiali di cricket. Vado a casa? Se ci sono i mondiali di cricket. E speriamo che eleggano il Presidente della Repubblica, così chiudiamo il programma. No, naturalmente sto scherzando, c'è qui con me Massimo. Ero pronto ad andare, eh? Ah, stai qui, Massimo Callegari, voce e volto noto di Mediaset Premium, la Ilaria D'Amico di Mediaset Premium. Ah, addirittura. Preferivo lei, ma che bello. Anch'io. Allora, 800240024 è naturalmente il vostro numero verde. Carogna anche chi mi scrive: da tifoso romanista ero contentissimo ieri quando hai fatto il pronostico. 349-238-6666. È ufficiale, l'Inter si è scollata, si inventano addirittura nuovi termini clinici come l'adduttore di Cambiasso, e zero titoli, come Massimo Callegari, attenzione, in esclusiva ci ha detto Mourinho. Senti. Inter che finirà la stagione con zero titoli e che con giocatori con tradizione, con cultura vincente, con tutto che una squadra ha bisogno per vincere titoli. Hai sentito? Sì, beh, un fake, come fake, dicono, no? Fake. Però attenzione, perché nel dramma più totale, insomma, Mourinho, che cosa ne pensi di questa cosa? Zero titoli non è un dramma, né per noi né per nessuno. Quando si lavora bene, quando si dà il massimo, arrivare alla fine con zero titoli non è né un dramma né una vergogna. Il calcio è così. Capito? Eh sì, però questo non era un montaggio, ma lo disse veramente. Però il problema è che sulla seconda parte si può e si deve discutere. Quando si lavora bene, si dà il massimo, si fa tutto il possibile. Allora, zero. Tutte le componenti, Massimo, zero come i titoli dell'Inter, zero come le certezze che hanno oggi gli interisti, non ce n'è una nemmeno sul futuro, a parte il fatto che penso che Stramaccioni, non adesso, difeso anche ieri da Moratti oltre ogni confine, ha detto che la squadra non poteva fare di più. Stramaccioni andrà via a fine stagione, ma non è tanto questo il problema. Il problema è che Paperini, che è tornato Paperino, no? E non si sa bene se infilerà di nuovo il mantello. Cioè, certezze sulla ricostruzione, sul futuro dell'Inter non ce ne sono. Non sono state messe in questa stagione pietre sul futuro. Sì, io penso che tutto il futuro debba essere costruito partendo dal presente e dal passato recente, e dando dei nomi ai responsabili delle situazioni che si sono generate. Quindi se Stramaccioni ha compartecipato a certi acquisti, a certe operazioni di mercato, Schelotto su tutte, e alla gestione della preparazione atletica, allora è colpevolizzabile e può essere rimosso. Se ha subito tante situazioni, se ha dovuto gestire anche equilibrio di spogliatoio perché la società non lo ha tutelato in alcune scelte anche più drastiche che avrebbe voluto fare, allora potrebbe non essere lui il principale responsabile di questa situazione. Principale no, responsabile sì. perché fa l'allenatore. Io credo che, insomma, dopo l'idea iniziale delle tre punte, ti ricordi dell'Inter tutta talento, dell'Inter, sì, che vince a Torino, e Stramaccioni che se la piglia perché con Marotta in maniera anche un po' presuntuosa, eccetera eccetera, tutto è sfumato tra infortuni e incomprensioni, e io ho l'impressione che da lì Stramaccioni abbia perso la maniglia della squadra. Sì, è possibile, è sicuramente stato così, però certe situazioni e dinamiche interne di equilibri o non equilibri con lo staff medico ci sono da sempre all'Inter. Ha avuto problemi in difficoltà Mancini, ha avuto problemi in discussioni Mourinho, ha avuto problemi Stramaccioni, questo è un problema alla base. La gestione degli acquisti non dipende solo da lui, c'è la valutazione abnorme di Pereira, l'acquisto di Alvarez dall'Argentina e non di altri giocatori importanti, l'affare Schelotto di recente non dipende da lui, dipende da lui certamente una gestione sin troppo ricercata dello schema tattico della squadra, degli schieramenti. Per dire, ieri sera in una situazione di emergenza totale, assoluta, comunque l'Inter nel primo tempo, io ero allo stadio dove si vedono le cose sicuramente meglio, era in campo, poi Andanovic ha compiuto due miracoli e si poteva benissimo chiudere il primo tempo già sull'1-1, però era in campo con un equilibrio 4-4-2, insomma un'idea di squadra e di copertura anche, no? C'era a centrocampo così, e comunque è bastato un cambio della Roma con Balzaretti in campo in difesa e lo spostamento però anche di Schelotto e Alvarez, che sinceramente mi è sembrato superfluo in quel momento. Anzi, Alvarez era stato uno dei migliori dell'Inter nel primo tempo, l'Inter ha perso una delle sue armi principali. Quindi, forse ironicamente, scherzando, si può dire talmente abituato è stato in questa stagione a sbagliare formazione all'inizio, che ieri, che comunque nei limiti l'aveva azzeccata, ha voluto cambiare qualcosa lo stesso. Certo. Scherzando. 800240024 per intervenire. Sono un gufo, non lo so, non sono milanista. Anche il Milan zero titoli, scrive Alessandro da Vittorio Veneto. Secondo me la qualificazione in Champions League non sarà un titolo, ma qualcosa vale anche dal punto di vista economico. Torniamo io e Massimo Callegari subito dopo il traffico. Sì, no, fate complimenti, non ho fatto un discorso di complimenti a ogni giocatore, perché mi è sembrato che avessero fatto quello che potevano fare e che... Convocati. Allora, Massimo Callegari, adesso prima di cominciare a parlare con gli ascoltatori, che sono già tanti, 800240024, e voglio dargli spazio, sperando che siano così bravi da variare anche un po' sul tema del giorno, anche sullo sport, volendo, perché siete sempre convocati su ogni argomento sportivo e continuo a ripeterlo. Voglio dire una cosa estremamente impopolare: secondo me l'unico vantaggio di questa situazione è che davvero l'Inter, che sta ancora finendo di pagare i contrattoni che Moratti si è infilato al collo dopo la notte di Madrid, 150 milioni negli ultimi due esercizi, non è poca roba. L'unico vantaggio è che davvero adesso è possibile ripartire da zero, e io ripartirei da zero, come ha fatto la Juventus liquidando Del Piero, come ha fatto il Milan con la vecchia guardia in blocco. Perché? Perché bisogna fare così, perché giocatori come Del Piero, come Seedorf, come Gattuso, come Inzaghi non sono semplici giocatori, sono... Però dipende anche lì anche dall'allenatore, perché alla fine Allegri in questo ha supportato, appoggiato un'idea che magari c'era in società, che però non veniva espressa in maniera così evidente, e Conte ha fatto altrettanto alla Juventus. Bisogna liberare, dipende anche dall'allenatore, bisogna liberare le mani di chi verrà, perché è chiaro che le bandiere argentine, Zanetti compreso, sono più di semplici giocatori, incidono ovviamente sullo spogliatoio, sull'opinione pubblica, c'è chi dice anche sul mercato, naturalmente, e quindi l'occasione deve essere, secondo me, sfruttata dall'Inter per chiudere, per poi lasciamo spazio agli ascoltatori. Se Stramaccioni, che quella sera dopo la partita col Torino, ancora prima che quella con la Juve, si offese quando gli dissero che era stato provinciale, fosse stato un po' più provinciale, avesse rischiato meno, anche a costo di frustrare la sua idea ideale di calcio, forse qualcosa di più avrebbe ottenuto. Sì, un po' presuntuoso lo è stato. ha creduto di poter fare un tipo di calcio che non era adeguato per quel tipo di squadra, soprattutto insomma, dopo che è rimasto senza squadra. Ripeto, ieri 4-5 centrocampisti nella copertura del campo di un certo tipo, in una situazione di emergenza assoluta, però certo, però equilibrio reggeva, minimo reggeva, c'era. Reggeva. Allora, primi ascoltatori 800240024, Davide, provincia di Pavia, Carlo da Milano. Davide, buongiorno. Buongiorno gente, volevo già telefonare da qualche giorno, sì, perché volevo spostare un attimo l'attenzione, perché la partita di ieri sera ha dimostrato ancora una volta che l'Inter non ha bisogno di aiuti per farsi del male da sola, e ieri Stramaccioni ci ha messo molto del suo abbassando scelte della dirigenza, ma il grosso problema secondo me è che un po' tutti stanno sottovalutando è il messaggio che ha dato la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega Calcio nelle due partite precedenti, perché lo scandaloso arbitraggio ed inutile accanimento nei confronti dell'Inter non sono serviti a niente se non a dimostrare che la federazione ha voluto ribadire che il presidente Moratti e l'Inter non contano più assolutamente niente e che loro possono colpirla come e quando vogliono, anche nella maniera più clamorosa possibile. Quindi siamo, torniamo alla malafede, di Moratti. Non è una questione di malafede, no, è una cos'è? Questione di se è così è malafede all'interno, no? Della Lega. No, se è così è malafede degli arbitri, cosa alla quale io non credo. Poi si è detto per avvantaggiare il Milan, però tutte le volte mi viene in mente l'arbitraggio di Fiorentina-Milan e poi mi viene in mente il fatto che il giudice sportivo evidentemente non è stato avvertito di questa situazione, perché una giornata di squalifica a Cambiasso, secondo me, dopo quel fallo contro la Juventus non ci sta. Beh, non lo so, io sono discorsi che non condivido questi, non so tu. No, però cioè, se questo ascoltatore dice questo, vuol dire che secondo lui c'è un disegno, perché no, se si fa colpire in maniera ma poi perché? Scientifica, vuol dire inutile che si stia qua a discutere a questo ma punto. Sì, poi Massimo, non penso sia stati i poteri oscuri ad azzoppare mezza squadra dell'Inter, anche lì si tratta di capire le ragioni di tutti questi infortuni. Questo sicuramente. Tanto per cominciare, e anche qui mi tornano in mente, perché certe volte la memoria ce l'ho buona, mi tornano in mente le parole di Mourinho quando disse, ma qui ognuno, anzi di Benitez, quando disse qui ognuno si fa i fatti suoi, va in palestra quando vuole, si allena come vuole, eccetera eccetera eccetera, e questa è fonte di disagio. Io ribadisco, se Benitez avesse avuto la fiducia e il tempo che sono stati dati a Stramaccioni probabilmente da quella fase storica con le capacità che comunque Benitez, pur avendo avuto dei limiti nel suo impatto con l'ambiente, ha e aveva, forse sarebbe cambiato certo, qualcosa. Ecco, per chiudere il discorso invece devo dirti, comunque, ecco, rimane questa cosa, questa anomalia tutta italiana, per cui ci sono periodi in cui una squadra non ha rigori contro per 20 e passa partite, la stessa squadra anni fa non aveva rigori, non, in questo caso a favore, qualche anno fa non li ha avuti contro per 30 e passa partite, la stessa squadra quando c'era il padre di Moratti non ha avuto rigori contro per più di 50 partite, altre squadre hanno avuto situazioni di questo genere continuative, no? Quindi questa è l'unica cosa che fa impressione. Sì, fa impressione, ma rientra secondo me nella stranezza del calcio. Io ricordo anche il Milan di Capello vincere gli scudetti forse con un rigore a favore, ed era una squadra che... La Juventus l'anno scorso praticava abbastanza i sentieri della metà campo avversaria, no? Carlo, Milano. Buongiorno, complimenti. Io vado ancora più estremo di Callegari. E via. Io sostengo che Stramaccioni è l'allenatore più fortunato della Serie A. E le spiego perché. Perché in parte gli arbitraggi, io sono milanista però ammetto, in parte gli arbitraggi, gli infortuni e una società ridicola gli forniscono degli alibi clamorosi che mancano sempre per la stampa ai tre migliori allenatori di Serie A. Cioè io dico sempre, Allegri gli hanno venduto 11 giocatori buoni, sì, e vediamo dov'è. Però se perde una partita lo massacrano. Conte, che ha 4 giocatori di pallone e vincerà 2 scudetti. 4 mi sembrano pochi. No, vabbè, però obiettivamente se parliamo di livelli superiori ammetterà che sono 5-6 quelli di qualità, gli altri sono bravini, io parlo di qualità, di campioni. Sì. Vince due scudetti, perde due partite e lo criticano persino gli juventini. Sì. Mazzarri ha riportato il Napoli, che ci ricordiamo dov'era, e viene massacrato. Tramazzoni è l'allenatore più fortunato e protetto della Serie A, pazzesco, sì. Che io da sostengo da dopo quel derby, è più mi sta antipatico, perché secondo me è veramente il Mourinho dei poveri, cioè quando vince, e io mi riferisco al derby dell'andata e a quello pareggiato del ritorno, qui sono milanista, l'ammetto, vende una merce che non è sua, è una persona molto intelligente, sì. Ma è sopravvalutato come allenatore ed è sì. Protetto. Beh, ma è protetto, Carlo, è protetto perché comunque è stato voluto da Moratti. È chiaro che Benitez e Gasperini, Moratti non li voleva neanche vedere alla prima occasione utile, via. Stramaccioni è stato difeso invece da Moratti, che ha scelto questo allenatore e andrà con questo allenatore fino alla fine. No? Sì, però ripeto, se questi non sono solo alibi, come diceva Carlo in questo intervento molto agguerrito, ma sono in realtà situazioni reali, allora se lo vuole difendere, proteggere, lanciare definitivamente, deve metterlo nelle condizioni di non avere più questi alibi, certo. E questi problemi, certo, quindi certo. Di rimuovere o modificare le situazioni che hanno generato queste difficoltà. Senti, si continua a fare tra i nostalgici, ma non solo, il nome di Oriali, che è stato tuo ospite, certo, sentiamolo. Sì, ciao Andrea, no, condivido quello che ha detto Andrea e devo dire che appunto l'Inter poi da quando ha cominciato a essere falcidiata da questi infortuni, da qualche decisione arbitrale anche sbagliata se vogliamo, però io credo che, conosco un pochino gli infortuni mi sembrano un pochino troppi, no? I recuperi mi sembrano un po' troppo lunghi e Andrea devo dire che anche i 45 gol subiti mi sembrano tanti. Chiaro e preciso. Impeccabile come impeccabile sempre. Da te. Io tutte le volte che non lo conoscevo prima personalmente, tutte le volte, più volte l'ho visto, ho avuto modo di lavorare con lui e mi sembra incredibile che un club di così alto livello possa non contare e puntare su una persona di così alto spessore e così, di così grande senso di appartenenza. Cioè lo striscione di ieri sera dei tifosi dell'Inter dopo Mourinho, che peraltro se ne andò, sì, no? Sulla macchina di Florentino, però dopo Mourinho nessuno ha trasmesso senso di appartenenza a questi colori. Oriali, chi più di lui? Sì, poi... Ma anche una figura, Carlo, che si presenta qualche volta alla fine della partita a fianco, prima, al posto dell'allenatore, e prenda le sue difese e dica la società la vede e la pensa in questo modo. Certo, certo. No, è indubbio poi che Oriali è in una posizione di forza perché se n'è andato da un Inter vincente e quindi sì, però ha aiutato a costruirla, No, ma senza dubbio. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi vorrei parlare anche di Roma. Certo, quella che ha passato il turno è la Roma. Che si giocherà questo derby di pomeriggio, che è bellissimo, come la finale di Coppa d'Inghilterra. Ma meraviglioso. Come dicevamo con Franco Piantanide, bellissimo. Bellissimo, è necessario magari? Sì, sicuramente, però non è un dramma, non vedo drammi in questo. Quale anzi, dramma? Ma dramma domenica di... pomeriggio di maggio a Roma, cosa c'è di più bello nella vita? Ma dramma di che cosa? C'è di più bello nella vita? Beh, dopo ti dico due o tre cose meglio. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo, io e Massimo Callegari. Inter con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo avere con me e che finirà la stagione con zero titoli. Convocati. Per fortuna c'è Massimo Callegari, per vostra fortuna. Questo è un messaggio che mi piace, lo leggo certamente, di Paride. Siamo io, il cane e il gatto. Io vado sui campi, il cane mi segue, rimane solo il gatto ad ascoltare le tue cazzate. Molto bene. We speak the cattiveria. The cat. No, sono simpaticissimi, dai. Black Cat. Black, no, Black no. Come quelli di Paolo Di Canio, Black Cats. Sunderland. No, sono superstizioso. L'Inter è grande perché tutti ne parlano, anche la Roma vincitrice ieri è scomparsa oggi nei giornali e nelle trasmissioni radio. Adesso parliamo di Roma, ma come disse un giorno Beppe Severgnini, siamo sexy e nessuno riesce a staccarci gli occhi di dosso. Mi è rimasta impressa questa citazione di Beppe. Beh, tanto pubblico ieri anche, devo dire, encomiabile sì. Allo stadio, perché insomma tanto pubblico ad assistere alla partita e anche allo sviluppo della partita non favorevole. C'erano gli abbonati all'Inter che avevano diritto di accesso a questa partita, in fondo era quella da vedere, no? In questo periodo dell'anno. Ma parliamo di Roma, se volete, 800 24 00 24, e sentiamo cosa dice Andrea Zoli, che non è esattamente dell'opinione di Massimo Callegari e mia. Io penso a un derby giocato di giorno a fine di maggio, da rabbrividire, io credo, ma non per il pericolo degli incidenti, ma da rabbrividire per la gente che viene a vedere e per chi lo deve giocare. Credo proprio che sia andare contro a una festa dello sport. Non mette nella condizione nessuno di poter gioire e esprimere il massimo, perché tu la possibilità di esprimere il massimo gliela togli. Mi domando perché, ma no, vabbè, questo effettivamente è un ragionamento, ma per questioni climatiche, non lo so. Sì, presumo di allora, sì. Allora però si può giocare alle 17, credo. Adesso io non so le questioni di sicurezza, qui non mi fermo perché non so fino a che punto e fino a che ora ci si possa spingere, considerando poi premiazioni supplementari e se arriva a sera. Però, insomma, già alle 17 a fine maggio. Sì, Massimo, i mondiali di calcio non li giochiamo più perché fa caldo. Beh, dipende, in Sudafrica sono stati migliori che negli Stati Uniti, no? Per ma il clima. Sì, però voglio dire, comunque alla fine di maggio a Roma, al pomeriggio, si può tranquillamente giocare. D'altra parte, il pur bravissimo Andrea Zoli, quando è primavera, fiorisce. Lo sai. Grazie, anche lei sì, la trova così, è vero. Andrea Zoli, posso dire, vedo che è arrivata la primavera, complimenti. Grazie, lei. Io ho detto l'altro giorno, vedo e sento che è arrivata la primavera. Sì, ma dillo un po' più di vivacità, no? Fondo. Però è stato bravo, anche ieri sera, ripeto, una mossa sola, però l'ha fatta subito. All'intervallo ha messo a posto la zona dove aveva avuto più difficoltà, e comunque anche lui ha parecchi giocatori di grande qualità da metà campo in avanti. In difesa la squadra ha dei limiti. Sì. Beh, e devo anche dirti, visto che so che tu sei un grande estimatore di Zeman. No, per niente. Ecco, che vedendo alcuni giocatori nel loro sviluppo della stagione, su cui lui aveva puntato ciecamente in ruoli chiave, Bradley, Taxidis, Lorenzi, insomma, Goicoechea ha commesso degli errori, non solo nell'idea di gioco, ma proprio nella scelta degli uomini. Sì, è andato lì a fare una prova di forza. Integralismo, però. Di integralismo, qui comando io, c'è Totti, c'è De Rossi. Che bisogno c'era? No. Appunto, infatti è Zeman. E infatti adesso la Roma, secondo me è la favorita, i laziali si arrabbieranno, però, anzi no, saranno contenti davanti, perché, ripeto, non struscio un pronostico, ma manca tanto tempo, vediamo. Però insomma potrebbe vincere la Coppa Italia e chiudere anche il campionato in una posizione non da Champions League ma onorevole. Mauro, Milano, Massimiliano ancora, 800 24 00 24, il numero verde. Mauro, buongiorno, grazie di avermi convocato sempre. Il mio approccio riguarda la Ferrari, nel senso che io trovo la Ferrari o la Formula 1 in generale, trovo che le gomme quest'anno siano troppo determinanti rispetto ai valori in campo. Ed è innegabile, perché la Red Bull a mio parere è ancora superiore alla Ferrari, e l'ha ampiamente dimostrato nelle gare in cui era possibile correre, ma fare ruote che durano 4-5 giri è una cosa assurda. Sì, lo è, però siamo a un discorso che facciamo da 20 anni, cioè l'importanza delle gomme in Formula 1 è determinante ormai da moltissimo tempo, cioè una componente determinante. D'altra parte tutti usano le stesse e tutti devono provare ad adeguare la macchina alla qualità e al consumo delle gomme. Anche questo può essere può essere una chiave di lettura, cioè tutti avete quelle, vediamo chi è più bravo a sfruttare questo materiale, discutibile finché si vuole, però uguale per tutti. Massimiliano Ancona. Pronto? Pronto, sono sì, pronto, buongiorno. Io sono pronto, lei? Abbastanza, anch'io, rispondo presente alla convocazione. Bravissimo. Io volevo, purtroppo oggi non ho sentito la trasmissione e quindi magari ripeterò alcuni concetti, però io non sono in intervista, ma vedendo ieri la partita Roma-Inter, io ho avuto la mia impressione che il problema dell'Inter, togliamo gli infortuni, il discorso degli arbitri che insomma mi lascio un po' il tempo che trovo, sì, onestamente proprio l'allenatore. Secondo me rispetto alle squadre di vertice, l'Inter più o meno ha la rosa diciamo più o meno simile a quella delle altre squadre, che ma l'allenatore è meno brillante e anche secondo me meno importante in società rispetto a quello che può essere un allenatore di una Lazio, della stessa Roma, della Fiorentina, per non parlare di Juve e Milan chiaramente, sì. Che sono, cioè lei dice stramaccioni non conta nulla in questa Inter, stramaccioni conta non poco conta. Secondo me a livello societario e anche le molte scelte che fa secondo me non sono del tutto comprensibili, sì. Molti errori di formazione, alcuni cambi anche che spesso vengono fatti in modo poco sì. Limpido probabilmente. È un po' quello che dicevi tu prima, Massimo? Sì, beh, non dipende solo da lui. Certo, a un certo punto, visto che si parla tanto di giovani che devono avere spazio, lui lo ha avuto. A quel punto, nel momento in cui ha capito che gestendo e cercando anche compromessi interni forse non riusciva a trovare la chiave per svoltare, avrebbe potuto essere più aggressivo e più tranchant, no? Però questo sono state valutazioni che sicuramente anche lui avrà fatto e non ha avuto poi il tempismo per intervenire né il supporto, ripeto, in società, come diceva anche l'ascoltatore, però non dipende solo da lui. E la questione infortuni è determinante, perché l'unico modo per tenere alta la competizione interna è avere tutti disponibili e anche dire ai migliori: occhio, perché se tu cali di forma, visto che abbiamo parlato di Mourinho, Casillas è un esempio dire proprio estremo e li andiamo oltre tutto, però rappresenta questa mentalità, no? D'altra parte Mourinho ha giocato con Casillas e con i problemi interni, è stato certo. Infatti in questa stagione è stato, però anche l'anno del triplete lui a un certo punto lo raccontò Giulio Cesar, gli disse: Giulio, se tu avessi un secondo portiere all'altezza saresti in panchina, sì. Quindi è un meccanismo che per un allenatore conta, poi dopo bisogna avere la capacità di allenare la squadra con intensità eccetera, però uno degli allenatori passati, adesso non dico il nome, di recente all'Inter ha anche detto in maniera naturalmente non ufficiale, però è difficilissimo allenare quella squadra perché un certo gruppo di giocatori a un livello, anche un'età anagrafica avanzata, patiscono allenamenti troppo intensi e appena provi ad alzare un po' il livello poi ci sono gli infortuni, le difficoltà e quindi certo. Si sfalda tutto. Certo. No, ma per questo ti dico che secondo me è il momento, è l'opportunità per cambiare decisamente rotta, e non puoi cambiare rotta senza salutare genuflettendoti, no? Facendo qualunque cosa, festa a San Siro, però Zanetti, Cambiasso e posso fare l'elenco di tutti, lo stesso Samuel che è un giocatore mostruoso, ma insomma un giocatore fondamentale nell'Inter, però non c'è quasi mai stato, Milito. Insomma, hanno fatto, credo, il loro tempo in questa squadra e devi ricostruire senza partire da questi, proprio per liberare le mani dell'allenatore che verrà. Non so chi sarà, dicono Mazzarri. Boh, tu ci credi? Non del tutto, sinceramente, no. Non del tutto. Da quello che mi risulta non è una delle figure che almeno Moratti veda come possibili sulla panchina dell'Inter al momento, però sai, poi anche queste sono dinamiche che sì. Si sviluppano e cambiano rapidamente. Potrebbe essere comunque un allenatore in grado di gestire una rosa senza campionissimi, senza grandi ambizioni, una rosa sì, poi con un polso e un'aggressività che servono, poi senza coppe insomma per lui sarebbe l'ideale. Certo. Sentiamo De Rossi a proposito di Roma. Ci penso già da un po' di tempo, da quando avevamo vinto l'andata contro l'Inter. Naturalmente preferivo anche una squadra più forte, tipo la Juve, piuttosto che la Lazio, che magari è meno forte della Juve, ma sarà una partita carica di mille altre cose, insomma, potrà essere, come ho detto prima, la serata calcistica più bella della mia vita, magari la più brutta, insomma. Per fortuna abbiamo un mese per pensare al campionato e staccare un attimo la spina, anche se immagino che già domani a Roma, insomma, anche se leggo i messaggi che mi sono arrivati stasera, insomma, sembra che ci vediamo domani sera. Ma... Vabbè, dai, carica duro De Rossi, questo derby, a partita più importante della mia vita per uno che ha vinto un mondiale, mi sembra tanta roba. Allora, ci fermiamo, Massimo Callegari, per il traffico. Poi torniamo con altre voci, altri ascoltatori, eccetera. 800 24 00 24, numero verde. Immaginavamo questa spensieratezza tattica dell'Inter, dell'allenatore dell'Inter. Tutti convocati. Massimo Callegari, sai chi è Manuel Alvarez? L'ho sentito. Chi è? L'ho sentito. Il presidente del Canillas Club, il... club dove milita, dove gioca il figlio di Mourinho. Ebbene, questo Manuel Alvarez ha detto certe cose in spagnolo, sentiamolo. Bueno, nosotros le preguntamos que si va a dar la charla dentro de 365 días y él ha dicho que era imposible porque no va a estar aquí, pero vamos, yo... ¿Cómo? Que era imposible porque no iba a estar aquí. E quindi conferma, no, che Mourinho andrà via. Secondo me, io continuo a dire Chelsea, poi c'è chi dice Paris Saint Germain. Tra l'altro, ieri notizia della sera, allergia alle coppe per Ancelotti. Da preferisco la coppa a tutte quelle alzate, adesso fuori contro Levian in Coppa di Francia. Peccato, perché con Barcellona aveva fatto due partite fantastiche. Sì, sono d'accordo. No, beh, sensazione Chelsea, Mourinho, però sensazione. Adesso una delle ultime cose che ho visto ora su Twitter, che pare che Ancelotti abbia una clausola di tempi per cui entro il 30 di aprile deve decidere con il club Paris Saint Germain se rimane o se va a Madrid. Quindi lo sapremo, sì, presto. Sono sensazioni, però insomma è il fascino del Chelsea e della Premier rispetto a quello economico, che certo non è da poco, del Paris Saint Germain, certo. Però certo, mi sembra che non ci sia paragone in questo momento, certo. Comunque, no, per il campionato, per il tutto. Ti faccio sentire un'altra cosa che ti farà piacere. Questo è un coro da pub, sei anche tu che canti. Fantastico, e idealmente sì, in casa, sì, per strada, adesso in questi giorni sì, non riesco a farmelo passare a togliermelo dalla testa, è fantastico. Sì, eh. Cioè, è un po' greve, no? Naturalmente i concetti, poi insomma, vabbè, ti lascerei anche la moglie. Sì. Però voglio sporcarmi anche io le ginocchia, un senso metaforico, non solo, no? C'è proprio di... È stato fantastico. Io ho esultato per il Sunderland domenica, devo dire la verità. Sì, sì, perché poi l'ho conosciuto personalmente, ci ho lavorato, sono andato a seguire il suo ritiro quest'estate. Era venuto in Italia con lo Swindon Town sul lago di Garda. E devo dire, oltre e al di là di tutte le questioni extra calcio, tecnicamente, come visione generale di questo sport, credo che abbia delle potenzialità da allenatore enormi. Enormi, perché ha una visione completa e complessiva del gioco, tecnica, psicologica, di mentalità, di ambiente, tattiche, bravissimo, secondo me. Poi ripeto, sì, sì, bisogna vedere lo sviluppo della sua carriera. Disse che Zeman, a proposito di Zeman, da casa tua, Sport Mediaset, esce questa voce: Zeman successore di Stramaccioni sulla panchina dell'Inter, voci vicine alla famiglia Moratti. Manca. Beh, Zeman, che ci stiano pensando, non lo escluderei, cioè non lo escludo, non perché lo so, però sì, in questo momento vale un po' tutto. Quello che l'Inter dovrebbe evitare, credo sia scelte di pancia, no? Di questo momento, assolutamente, no, ma arrivare alla fine con Stramaccioni, tanto cambiare adesso non ha ecco, tra tutte le cose che abbiamo detto criticabili, ieri sera Kovacic mi ha dato l'impressione di essere un giocatore potenzialmente fantastico. L'Inter ha, per l'età, per la difficoltà del ruolo, del momento, secondo me l'Inter in questo momento ha un grande portiere, certo, ha un ottimo attaccante che è Palacio, sì, ancora sfruttabile in termini di età. Uno che arriva bravo, Icardi. Uno che arriva bravo e ha l'età di Kovacic, che è un talento da esplorare. Eh sì, certo. Non c'è molto altro, mi pare. Beh, anche Juan, Jesus, Ranocchia, protetti, coperti, sistemati in campo in una maniera, appunto, che limiti un po' le loro difficoltà dinamiche, sì, e di velocità, secondo me. Sì. Ci si può lavorare, insomma, sono ottime basi, eh. Ci si può lavorare. Di Canio sul lago di Garda dove a Salò? Domanda Roberto. Che cattiveria. No, a Bardolino. A Bardolino, a, sì, Bardolino. Un giorno Vialli a questi microfoni disse che Zeman è un paraculo. Di Canio, secondo te, è un po' paraculo? No, secondo me è uno vero. È uno vero? Verissimo. Andrea, provincia di Forlì. Buongiorno, gente. Buongiorno. Eccomi, convocato. Convocato presente. Io so dove andrà Cavani. Ah, dove? Alla Longobarda. Alla Longobarda Football Club. Mi permetta la battuta, no? Vi, sì, sentivo molto, molto seri parlare dell'Inter. Seri, mai stato serio in vita mia. Ci faccia divertire, Genta. Sì. Come sempre. No, volevo dire la mia su Cavani. Su Cavani? Dove va? Se De Laurentiis, no, non lo so. Se io fossi al posto di De Laurentiis, se vengono con un assegno da 60 milioni di euro, lo vendo subito. Ma secondo lei De Laurentiis ci sta pensando? Ma secondo lei De Laurentiis non lo fa? Arriva lì uno con 70 e De Laurentiis dice: guarda, aspetta che te lo porto io. No, siccome lui dice vale 70. Ma no, ma se arrivano 70, a 63 dicevano, dicono io, i ben informati, sia il prezzo, il cartellino del prezzo di Cavani che andrà via dal Napoli per questa cifra, e come si diceva in un film, seguire la scia dei soldi. In questo caso non è difficile per capire dove può andare Cavani, le scelte non sono poi molte. No, beh, sono quelle, insomma. Real City, Paris Saint Germain, volendo, sì, punto e basta. Cioè, perché quei soldi non ce li ha nessun altro. No. Escludendo i russi. Cavallo! Cambia, cavallo! Che l'erba cresce! Ma potessi reinterferire nei cavoli miei, che mi fai perdere il filo. Ah! La Longobarda, sì, Oronzo Canà. Naturalmente. Mario da Ancona invece. Sì, salve, grazie per avermi, grazie, convocato. Io sono un tifoso interista. Sì. Purtroppo non sono neanche più deluso, perché la nostra storia ci insegna che essere tifoso interista nel DNA bisogna soffrire. Abbiamo sempre sofferto, però diciamo c'è quel picco di, diciamo, come il triplete, come gli anni 60, è la nostra storia purtroppo. Siamo una squadra non come la Juve, il Milan, le altre squadre che hanno sempre avuto quella continuità. Noi siamo l'Inter purtroppo, e questo... Noi siamo l'Inter, lo canto anche nell'inno. No, vabbè, insomma, sappiamo bene quale sia il DNA dell'Inter. C'è sofferenza, c'è contraddizione, ci sono un po' tutti questi elementi storicamente, no Massimo? Sì, però credo che, insomma, anche per stare al passo coi tempi, certe situazioni, insomma, debbano essere gestite, come dicevo sin dall'inizio, in maniera molto razionale, e fare delle valutazioni sul lavoro delle singole componenti per stabilire le responsabilità, perché sennò finisce sempre per pagare uno. E abbiamo visto in questi anni che alla fine gli allenatori sono cambiati, altri sono cambiati, altre situazioni non sono cambiate, e però il prodotto è rimasto, certo, è rimasto lo stesso. Quindi evidentemente almeno gli equilibri devono essere valutati più chiari. Massimo, ti ringrazio e ti aspetto a voi. Presto, è un piacere, questo finale sempre di stagione, un piacere per me e per gli ascoltatori. Grazie a Massimo Calegari, a Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Domani alle 2 siamo di nuovo qui. Ciao a tutti. I risultati non arrivano, ma quello che preoccupa, penso ancora di più, è il gioco. Il gioco che non c'è per ora.